con Lucia Cuffaro, co-presidente del Movimento per la Decrescita Felice, per parlare della Festa Nazionale della Decrescita Felice a Roma, città dell'altra economia, 21 settembre 2019. Lucia, ben trovata. Ciao Federico, grazie dell'intervista. Raccontiamo cos'è la decrescita felice, partiamo da qui. Bravo, ottimo, perché queste parole creano sempre un po' di facce basite in qualche modo. In realtà già se associamo la parola decrescita felice ad altre due paroline che sono decrescita degli sprechi, già abbiamo un'idea un po' più completa. In realtà è un movimento che critica il sistema attuale, no, di iperproduzione, di merce, di iniquità e tende, no, quindi a innanzitutto a sensibilizzare su una riduzione a monte dei prodotti che vengono venduti e quindi degli acquisti, cercando di andare un pochino più all'essenziale, quindi meno merci vendute, solo quelle un po' più necessarie, meno inquinamento, tecnologie più sostenibili e uno stile di vita più in linea con la natura, quindi con una riduzione netta di attività umane che vadano a impattare sull'ambiente. Quindi diciamo tutto questo cerchiamo poi di metterlo nella pratica, nelle attività che facciamo, tra cui la festa, quindi cerchiamo di spiegare alle persone come posso migliorare il mio impatto ambientale, quindi ci focalizziamo sulla parte propositiva. La festa è una 2 giorni, mi dicevi 40 eventi, raccontaci tutto. Allora, vabbè, innanzitutto non ti ho detto che il Movimento per la Decrescita Felice è un'associazione di volontari, siamo circa 20 circoli in tutta Italia e i volontari da ogni regione, ogni città verranno a Roma per organizzare, quindi per fare anche la logistica, l'organizzazione è partita ormai quasi un anno fa, questi 40 eventi, quindi abbiamo varie aree, abbiamo un'area convegni in cui ci saranno dibattiti, proiezioni, incontri, presenteremo anche il nuovo modello economico legato al tema del lavoro e della decrescita, quindi insomma tutta una parte un po' più, diciamo, in qualche modo frontale. Nella parte esterna ci sarà il mercato contadino con i produttori biologici, gli artigiani, ma anche l'area olistica in cui è proprio pieno di attività legate allo yoga, alla meditazione, quindi in una parte un po' più chiusa, quindi avvolta dalle piante, quindi insomma per avere anche un po' più di tranquillità. C'è un'area bimbi, quindi i genitori possono venire e lasciare i bimbi, farli giocare, verrà una persona che fa giocare i bimbi con i giochi di legno, quindi anche divertente, senza usare plastica. E anche l'asilo nel bosco ci sarà delle attività sorpresa che ancora non svediamo, però saranno legate anche alla musica. Ci saranno l'area laboratori, l'area workshop, e sia il sabato che la domenica saranno sempre gratuiti, quindi passeremo dall'aloe, rimedi naturali per l'aloe, latti vegetali, formaggi vegetali, il pane, la kombucha, quindi insomma ci saranno tante cose da poter sperimentare e partecipare direttamente senza iscriversi. Un'area comunicazione, poi si mangerà ovviamente perché insomma il cibo è sempre fondamentale, quindi avremo i food truck, abbiamo fatto una scelta di cibo naturale, biologico, non animale, quindi vegetale, senza fare rifiuti di plastica, quindi utilizzeremo sempre il compostabile, no? Ci teniamo sempre molto a non impattare sull'ambiente. Ci sarà anche una parte più di intrattenimento, quindi avremo vari concerti, tra cui Adriano Bono con il suo reggae circus e gli artisti di strada, ci sarà Valerio Gatto Bonanni con un personaggio che si chiama Boris, che girerà in modo particolare, ecco, diciamo così, per la piazza della città dell'alta economia. Quindi tante cose, e anche abbiamo tamburi sciamanici, insomma, stanno arrivando anche tante proposte, molte persone si rendono disponibili a darci una mano. Anzi, faccio pure una call, già che ci sto, se posso, anche per i volontari, quindi se qualcuno ascolta e vuole in qualche modo supportare la festa e fare il volontario felice e decrescente, ci può scrivere alla nostra mail che è decrescitafelice.roma@gmail.com. Ci lasci anche tutti i riferimenti web per le informazioni riguardanti la festa? Sì, allora andiamo a preferenze, quindi se chi ascolta ama di più Facebook può andare semplicemente a mettere nella ricerca Festa Nazionale della Decrescita Felice a Roma. Oppure se mette festa di crescita felice comunque esce. I nostri gruppi e pagine Facebook hanno lo stesso nome, che è sempre il Movimento per la Decrescita Felice, invece il sito, ancora più facile, è www.decrescitafelice.it e lì insomma c'è l'articolo aggiornato con tutto il programma, sono 40 eventi, quindi insomma adesso linkarli tutti è anche un po' difficile, però insomma le tematiche che toccheremo vanno dall'economia al lavoro, alla spiritualità, alla bioarchitettura, al cibo consapevole, consumo critico, sovranità alimentare, quindi economia del dono, quindi tante cose, e insomma speriamo che le persone possano così passare 2 giorni all'aria aperta e a così a sperimentare un po' di decrescita felice. Festa nazionale della decrescita felice a Roma, città dell'altra economia, 21 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Lucia Cuffaro del Movimento per la Decrescita Felice. Lucia, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie.